non ho mai sentito di un allenatore di calcio che abbia cacciato di squadra un giocatore perché si faceva il segno della croce o perché metteva avanti sempre il piede sinistro, che so, prima di entrare in campo. Tuttavia, ecco, sono sicuro che sull'umore del malato un chirurgo che si presentasse in sala operatoria tenendo in mano un cornetto, beh, sull'umore del malato avrebbe un effetto deleterio. Come se il pilota di un aereo si presentasse ai passeggeri incrociando le dita di una mano e bendendo un ferro di cavallo con l'altra, no? La superstizione, diciamo che alberga un po' ovunque, ma in certi ambiti, ove la contraddizione striderebbe di primo acchito, si usa celarla, questa superstizione si usa celarla accuratamente. Non a caso all'allenatore di calcio ci si può rivolgere come ad un mago, mentre a Rubbia, mentre Carlo Rubbia l'ha trattato come uno che dal materiale che adopera, alle operazioni che ci fa su e dagli esiti che ne ottiene, controlla, uno che controlla e governa proprio tutto e nella piena consapevolezza. Che il sapere dei fisici poi non sia poi così a prova di bomba, per usare un'espressione che qui calza a pennello, è tutt'altra questione, che tocca poco il modo in cui la generalità della gente guarda a loro e a ciò che fanno. Nei giorni scorsi un'antropologa, Elisabetta Visalberghi per l'esattezza, nell'inserto scientifico della Stampa, si è lamentata con garbo di un fatterello occorsole che forse per quella finta ingenuità che è sempre un po' necessaria per scrivere un articolo sembrerebbe averla sorpresa. Cosa è successo? Ha ricevuto un anellino della vecchia e classica catena di Sant'Antonio. La solita lettera in cui, alludendo vagamente a malefici e citando più esplicitamente benefici, si invita il ricevente a perpetuare l'iniziativa ricopiandone il contenuto dopo aver aggiunto il proprio nome in fondo ad una lista ed inviandola a conoscenti propri. In materia c'è tutto un florilegio di variazioni stilistiche, c'è la catena di Sant'Antonio che mira a produrre capitale e quella che promette meticolosi stermini dell'intera famiglia degli inadempienti. Quella ricevuta dalla Visalberghi era di tipo, diciamo, relativamente benigno, auspicando con semplicità colpi di fortuna per sé e per gli amici. Da antropologa che sulla miseria delle genti ne sa una più del diavolo, non si stupiva e non si indignava né per l'usanza né per la forma particolare di quella toccatole. Si stupiva e si indignava invece per il firmatario non anonimo, non citrullone, non etilista notorio, bensì il firmatario valente scienziato anglosassone. E facendo notare come chiunque avesse aderito in precedenza all'iniziativa, scienziato anch'esso, si sentisse in dovere di apporre una breve giustificazione di questo suo attivo consenso, rilevava come i nostri scienziati ammettevano di essere scaramantici ma non superstiziosi, testualmente. Avessero cioè, in altre parole, gli scienziati trovato una scappatoia al vituperio, dire scaramanzia sì e superstizione, oibò, no, quella no. Mi sono chiesto se davvero di scappatoia si tratta. Di superstizione, infatti, è corretto parlare allorché qualcuno riconduce un evento paradigmato come naturale ad un altro paradigmato come soprannaturale, no? Allorché un fenomeno più genericamente viene spiegato con qualcosa che lo statuto di fenomeno non riceve. Superstizione è dunque l'applicare ad una situazione lo schema non convalidato dalle scienze, in definitiva. Ora, Se Scaramantico è qualsiasi gesto investito della capacità di scacciare malocchi e iettature varie, ovvero l'applicare leggi tutt'altro che convalidate scientificamente a ben due situazioni, perché la prima è quella del rapporto fra iettatore, iettatura e suo destinatario, e la seconda è quella del rapporto fra il gesto liberatorio del destinatario e la iettatura, se le cose stessero così, e a me sembra proprio che stiano così, lo scaramantico non solo è superstizioso, perché ogni scaramanzia implica un dominio di superstizione in cui acquisire senso ed efficacia, non solo è superstizioso, ma è superstizioso due volte, e nel caso di scienziati due volte superstizioso nonché in flagrante autocontraddizione. Lungi dall'aver imboccato una scappatoia, dunque, gli scienziati che partecipano alla catena di Sant'Antonio hanno imboccato un tragico vicolo cieco. Non si sono salvati l'anima loro, e per l'ennesima volta in noi hanno dimostrato di non essere in grado di salvare il corpo a noi. Give me what I'm missing.